Con questo voglio dire, non è che dico che la cultura non è niente, la No, no, cultura è uno certo, è uno strumento, strumento. dobbiamo usarla proprio Esatto. per manifestare il nostro livello di umanità sempre di più, ma Sì. non per dare per la nostra immagine, No. perché sostituisca noi, questo no, questo è un guaio terribile. Sì, ecco, cioè io voglio, cioè raccontandovi la mia esperienza, cioè mi sembra così semplice, dico, ma come mai continuamente dire, ma perché gli esseri umani non si sono accorti finora di queste cose qui? Perché le sentono, le soffrono, le vivono. Proprio così. Certo. Cioè, non, cioè è come scoprire l'acqua calda se vuoi. E perché non le fanno, non le mettono a fondamento della loro esistenza? Esatto. E Maria è solo questo, Solo è questo. solo È questo. questo. Capito? E comunque è una domanda che anch'io continuo a ripetermi, perché? Perché uno sente quello che sento io e non prende come suo fondamento quello che sente, capito? E prende come suo fondamento quello che gli dicono dall'esterno. E per cui vuol dire vivo una vita drammatica, spodestato continuamente da se stesso. E con l'inquietudine, vuol dire perché l'esigenza non cessa mai fino all'ultimo, di essere se stesso, di poter dare senso alla sua vita e non senza poterlo dare perché veramente tutti gli strumenti che dovrebbero aiutarlo a questa conferma li usa per spodestarsi da se stesso. Sì, questo è veramente, voglio dire, io non credo al principio del male, ma solo alla libertà, quindi il male è la possibilità di fare quel che si vuole, quindi anche il male, quindi la libertà è la possibilità di fare quel che si vuole, quindi anche il male. Però ti viene qualche volta proprio di pensare che questo equivoco così radicato, così antico e così contemporaneo ancora, proprio ti viene da dire io che ci sia un principio malefico, cosa che io combatto, che non Sì, ci che non credo ci proprio, credo. io credo nella libertà dell'essere umano, quindi la libertà dell'essere umano, l'essere umano può farsi divino come può Eh farsi certo. antidivino, capito? E quindi poi ci sono le conseguenze, perché cioè, le nostre scelte hanno una conseguenza sicuramente non solo su di noi, ma anche sugli altri e anche sulla natura, direi. Le conseguenze delle nostre scelte maligne, del male, ci sono. Però ho anche questa consapevolezza, vi parlo a cuore aperto, che per fare una scelta maligna bisogna essere veramente coscienti. Cioè, molte scelte sono dentro l'ottica del male, dell'egoismo, tutto quel che vuoi, ma perché non sappiamo Perché chi siamo? No, siamo, non c'è una vera scelta di malignità, infatti. c'è una scelta di ambiguità, se vuoi, di egoismo, tutto quel che vuoi, ma non di piena coscienza. No, infatti. Non, e questo vuol dire ti ridà il tempo, cioè non esaurisce il tempo perché non è di piena coscienza, secondo me, non lo so, poi questa è una mia supposizione. Ma per quello che dici che nessuno è colpevole. Infatti, Per essere colpevole di qualcosa dovremmo essere coscienti di noi, coscienti se di chi no è? di cosa sei colpevole, Esatto. se non sei cosciente di te. Sì, proprio così. Tu prima hai parlato di che qualcuno invece farebbe, secondo te qualcuno fa delle scelte anche consapevoli di a un certo punto anche Può, quel può essere. c'è la possibilità, c'è. Sì. Io non ci credo molto che ci Almeno, siano. io ho Io non impressione ci che le persone credo. fanno così perché non Sì, vedono, perché non non vedono. Ci vedono. sono le scelte, diciamo, malevoli Sì, proprio ma perché perché non non vedono? capiscono, non vedono. Per ignoranza, Per diciamo ignoranza, così. sì. Questo sicuro. Dicevo che qualche volta no, il fatto che gli esseri umani non abbiano dato risposta, se non eccezionalmente, perché abbiamo Gesù e tanti altri maestri, sicuramente che hanno tentato di dare risposta alle proprie esigenze. Io direi che tutti gli uomini che hanno portato avanti la storia, di tutti i continenti sono quelli che hanno tentato di radicarsi dentro di sé, cioè secondo me, e hanno aperto spazi ad altri, hanno portato avanti la storia, hanno dato questo a tutti i livelli, sia spirituali che anche, io dico anche la tecnologia, per me voglio dire è una cosa positiva, cioè non, poi io non riesco a fare la differenza fra spirito e corpo, e materia, per me l'essere umano è l'essere umano nella sua completezza. Cioè, perché la mia esperienza è questa, cioè un'esperienza quasi più, prima di essere, diciamo, spirituale e intellettuale, è stata carnale, perché in realtà io ho sentito un corpo prima di vedere, poi ho visto un volto e poi è incominciata la comunicazione. Per cui su questo io non posso concepire l'essere umano diviso fra spirito e materia. L'essere umano è così e deve essere così, la sua gloria è proprio essere quello che è. E, ecco, questa è la cosa che mi affascina e che mi domando come mai vivendo nella sua carne l'essere umano sempre a tutti i livelli della sua evoluzione, questa esigenza di trascendersi, di andare, di essere di più di quello che è sempre, non ha fatto sì che non solo i grandi illuminati, ma insomma tutti gli esseri umani potessero prendere questa via. Allora ti domandi, ma c'è un maligno veramente che offusca e mette in confusione? Ma è una tentazione, io non ci credo, è una tentazione. La realtà è che l'essere umano è libero e non so perché si è reso dipendente. Probabilmente voglio dire perché di fronte al problema della morte, chi lo sa, perché si è reso dipendente o da Dio, o dalla natura o da qualsiasi cosa fuori di sé. Cioè questo per me è il vero mistero, è questo. Perché essendo chiamato alla libertà, alla pienezza, al desiderio di felicità, di pienezza, che ce l'hanno tutti questo, sì, tutti, sì, a livello diverso, ma tutti, si è reso dipendente. Senti, questa sì, è una domanda che ci riflettiamo da tanto tempo e noi cerchiamo delle risposte concrete. Come si fa a passare dallo stato di, tra virgolette, ignoranza a uno stato in cui comincia a vedere? E di coscienza. E di coscienza. E quello che è stata la mia esperienza così nella Chiesa, poi l'ho interrotto per un certo punto, anche perché ho avuto delle esperienze non delle più positive, ho avuto un sacerdote che era un mezzo pedofilo, insomma, non mi ha aiutato particolarmente. Mi hanno messo tante paure dentro, mi sono riempito di credenze che fino a 20-22 anni ho avuto queste convinzioni qua. Non sono stato aiutato in questo, da questo tipo di formazione, proprio per niente, perché mi venivano dette delle cose che per me bambino non avevano praticamente nessun senso. Nessun senso. Dovevo apprenderle così come un pappagallo, ripeterle, e se non ci credo sono cattivo, se ci credo sono buono, ma cioè non mi sembrava un buon modo per aiutare. Non persone. È di certo buono. No, anzi, proprio ho visto anche poi lì dentro i sensi di colpa li attivano alla grande, ecco, per cui c'è una repressione, parlo di una cosa delle più banali, la sessualità è un istinto che è una tensione, quindi lì anziché un'educazione c'era una repressione, c'era una forma che ovviamente la repressione conduce alla ribellione, alla deviazione. Esatto, e dopodiché la deviazione viene giudicata, per cui quello che mi sembra molto chiaro che questo sistema è un sistema di potere, cioè se io ci finisco dentro, dopo un po' io sono in balia di una forza che è tremenda, e come faccio a realizzarmi? E allora mi chiedo, ma queste cose... Sono uomini liberi, sono uomini condizionati, no, sono che perpetuano il condizionamento. Non sono uomini liberi. Non sono uomini liberi che perpetuano il condizionamento. E che naturalmente travisano continuamente il messaggio di Gesù. Assolutamente. Questa è la cosa drammatica. Sì. Io devo dire, cioè, la sofferenza che ho avuto, una vera sofferenza, cioè tutto il resto è stato gioia, però la vera sofferenza è di vedere come i cristiani, poi gli altri anche, ma insomma tutto il mondo religioso, partendo dai cristiani, si rappresentano il divino, capito? Dio è il concetto che hanno dell'essere umano, cioè l'essere umano peccatore. Sì, questa è una cosa tremenda. È tremenda. E non sono meglio neanche gli altri. No, dire, noi conosciamo, la nostra cultura, ma in tutte le culture è così. Io non ne conosco nessuna dove ci sia l'educazione sia stato tramandato il fatto che l'essere umano è libero. Senti, io quando ho conosciuto, contattato la visione buddista della cosa, mi è sembrata meno drammatica. È meno drammatica, ma È meno drammatica. Scusa, ma quale visione buddista? La visione buddista, sì, è meno drammatica, però voglio dire, perché non ha fino in fondo il concetto della vita. Ecco, ci puoi parlare un po' di questo? Perché, cioè, vuol dire, di questa visione? Della vita è meno drammatica, io l'ho visto così, però cioè, se vai un pochino più a fondo vedi che è meno drammatica perché non ha un concetto chiaro della vita, creativo. Cioè, alla fine voglio dire, comunque ti è stata consegnata una vita che devi vivere nel miglior modo possibile per restituirla. Ecco, questa è la sintesi. Insomma. Sì. Quindi voglio dire, meno drammatica, però anche meno viva. Cioè non c'è il concetto di vita, c'è più il concetto di morte che di vita, capito? Voglio dire, allora non è drammatica, mentre nel cristianesimo ci sono tutte queste cose che hai detto e molte di più, perché cioè, io che ho vissuto in mezzo ai preti da quando avevo 7 anni fino al 75, fino a 35 anni più o meno sempre, figurati quante ne ho raccolte, di tutte e di più. Però c'è questo senso più forte della vita. Ecco, questa è la compensazione, più forte della vita. Ecco, però con tutto un senso di colpa tremendo, finito. Per questo dico che ogni concezione religiosa, cioè questo ti dice che l'essere umano attraverso la costruzione della religione ha manifestato il suo desiderio di trascendenza, di infinito. Questo è il valore di tutte, è il valore della religione, di tutte le religioni. C'è la tensione dell'essere umano che ci fa riconoscere gli uni e gli altri. Le risposte che poi ci sono date, ce ne sono di quelle... se ne più diversificati, nessuno è giusto, secondo me. Ma tu che hai conosciuto Panica da vicino, che un po' conosco, Panica mi sembra che abbia una visione Molto adesso più... io ti dirò, l'ultimo incontro io l'ho incontrato il 10 di marzo, di maggio dell'anno scorso, lui è morto adesso. Allora noi avevamo, era un grande amico, ci voleva molto bene, avevamo tante cose vicine. L'unica cosa che ci divideva un po' era... l'idea della pienezza dell'essere umano anche nel suo fisico, anche dopo la morte. Questo lui faceva un po' fatica ad accettarlo, cioè, e noi ci beccavamo amichevolmente come due veri amici, però ci battebeccavamo sempre su questa cosa qui. Ed è stato, non ve lo racconto perché è stata una cosa con Panikkar. E l'ultima volta io sono andata con un suo discepolo, fra l'altro, che è stato un anno con lui, che è quello che me l'ha presentato, che è un mio amico, il padre Marcello, un eremita, che lui aveva momenti di lucidità, di non lucidità già, però cioè, mentre mi ha riconosciuto immediatamente, che io poi voglio dire una volta all'anno, ci conosciamo ormai da 16 anni, però ci vedevamo una volta o due al massimo all'anno, quindi... non molto, abbiamo fatto una conferenza insieme, sì, c'era una profonda legame, però cioè lui lì, io qui, non, poi qualche volta quando veniva in Italia andavo anch'io a salutarlo e a sentire i suoi interventi. E era ben diverso dal suo discepolo che è stato un anno con lui, che vive vicino a lui, si vedono una volta al mese o se no. Comunque ha riconosciuto me, non ha riconosciuto lui. E poi... e quindi voleva, come dire, una certezza da me. È stata una cosa curiosa. Mi ha preso la mano e mi ha detto, adesso che sono, la mano nella mano, dice, adesso che sono vicino alla morte, capisco che anche questa carne mi potrebbe mancare. Comincio a intuire quello che vuoi dire tu. è stata una cosa simpatica questa, sai? Perché proprio era un po' il nostro dibattito era sulla resurrezione della carne, che il fine dell'uomo è superare la morte, cioè questa è la mia visione, sì, certo. Storicamente la morte biologica, perché la fine, perché tutto l'universo, così come io l'ho sentito, è per sempre, la nostra forma nostra è per sempre, per questo ha senso la resurrezione, tutte queste cose, no? E su questo lui non era così chiaro, no? non gli era chiaro, era più orientale in questo. Certo, certo. E allora è stata una cosa curiosa che proprio l'ultimo incontro lui è stato, intanto voleva delle certezze da me, poi prendendomi la mano dice adesso io capisco che anche questa carne mi mancherà, potrebbe mancarmi, ma non mi mancherà, potrebbe mancarmi, e capisco sempre di più quello che vuoi dire tu. Bene, cioè questo è stato l'ultimo incontro il 10 di maggio dell'anno scorso, che è stato molto bello, molto molto bello, cioè un uomo straordinario. Sì, io ho conosciuto lui e la sua sorella, che altrettanto sua sorella era una persona straordinaria. Sua sorella, ha anche un fratello, ma quello l'ho conosciuto, ma non sono entrata in grande rapporto. E la sua moglie anche, straordinaria, poverina adesso all'Alzheimer, però sua moglie è una teologa straordinaria. Sì, cioè che ha molto capito, la moglie ha capito, cioè che era una cosa un po' ambigua, non si sapeva se era la moglie, vabbè. Sì, sì, è certo, per problemi. Sì, problemi, sì, problemi ecclesiastici. Lui non c'era certo uno che se ne fregava. Problemi ecclesiastici. E comunque lei ha capito molto la mia... Cioè, no, lo dico perché poi, siccome ci siamo incontrati diverse volte, allora lei capiva la mia proposta, la mia visione, e lui un po' meno, allora poi alla fine si mettevano a litigare fra loro due, dico no, questo non lo voglio proprio, ma era simpaticamente, cioè voglio dire adesso non andando a litigare, ma insomma, e quindi cioè, è stato dei belli incontri, dei proprio belli, belli. Sì.